lì ho capito che non c'era niente da fare. Non era questione di galline o di casa da curare, la questione era un'altra. La questione era che ci sono persone che non sono fatte per muoversi dal posto in cui sono nate. Alcuni partono, stanno via mesi, anni o tutta la vita. Altri invece non riescono a muoversi da lì. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, è martedì. Martedì, giusto? 28 giugno 2011. Questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Ci sono delle persone che vivono nella nostra città. Stanno di fianco a noi. Ma noi le vediamo poco e di loro sappiamo ancora meno. Ci sono un sacco di donne che arrivano magari dall'est dell'Europa o dal sud dell'America, che trascorrono le giornate stando vicine alle persone più anziane delle nostre famiglie. Qualche giorno fa ho dovuto rifare il passaporto e sono andato in questura. Lì ho incontrato due signore che sono in Italia proprio per fare quel mestiere lì. Mi sono avvicinato allo sportello, ho preso un numerino, un po' come il bancone dei salumi, e poi mi sono seduto su una di quelle panchine ai lati della sala. Le due signore erano esattamente di fianco a me e stavano parlando fra loro. Due donne di cui non saprei dire l'età. Una era scura di capelli, con gli occhi allungati e la carnagione olivastra. Credo fosse filippina. L'altra invece aveva la pelle candida. I capelli erano corti, biondi. Lei invece era ucraina. Avevano accenti molto diversi tra loro. La lingua della filippina suonava un po' come una ninna nanna. L'ucraina invece sembrava cantare una canzone patriottica quasi. Però parlavano italiano perché era l'unico modo per capirsi. Mi sono avvicinato un po' per ascoltarle meglio. L'Ucraina diceva di avere due figli, due, un maschio e una femmina. Il maschio 6 e la femmina 3. Sono 2 anni che non li vede, ma li chiama 2 volte a settimana. La filippina invece diceva di essere tornata a casa per Natale, diceva che non vedeva sua mamma da 4 anni e lei non vuole che la chiami perché sostiene che spende troppo. Mentre era via le è scaduto il permesso di soggiorno e ha rischiato di non rientrare. Una fa le pulizie, l'altra cura una signora che non riesce più a muoversi. A tutte e due piace l'Italia. Se riesce la prima tra 2 anni torna nelle Filippine e apre una lavanderia, ha detto. L'altra invece sostiene che se avesse il permesso di soggiorno tornerebbe molto più spesso. Adesso però forse le famiglie per cui lavorano le mettono in regola e riescono a far venire qualche familiare, un pochettino più vicino. Poi qualcuno da uno sportello ha chiamato un numero, loro si sono salutate e si sono augurate buona fortuna. Oggi voglio parlare di storie di badanti. Sì. Se vivete vicino ad una di loro, se vi è capitato di incrociarle, se ne conoscete qualcuna personalmente, io oggi sono qui. Ma soprattutto, se all'ascolto, in questo momento, alle 16 e quasi 10 minuti di un martedì qualunque, di fine giugno, c'è una signora che viene dall'estero, che vive in Italia e che fa proprio quel mestiere lì, che fa la badante, insomma. È all'ascolto e ha voglia di raccontarmi la sua storia personale, io sono ancora più qui. Scusa signore, volevo chiedere se è possibile racconto su liquidazione 2016, perché purtroppo il cognato di mio cugino è andato a sbattere, ha avuto un brutto incidente nelle Filippine, sta molto male, è andato a sbattere contro lo struzzo, signor. Che sì, signor cugino è andato a sbattere contro? Struzzo, signor. Uno struzzo? Sì. Uno struzzo. Uno struzzo nelle Filippine? Lui, signor. Ma va a bocca, va a cambiare donne che ha fatto di nuovo. 800240024 349-238-6666. Non c'è Guzzanti e non c'è neanche, come si chiama l'altro? Marzocca? Con la R? Marco Mazzocca. Non c'è nessuno dei due qui in studio, ci sono solo io. Però mi piacerebbe sentire proprio una signora che magari viene dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Russia, dalla Polonia anche, no? Dalla Bielorussia, dalle Filippine, dalla Romania, dalla Moldavia, l'ho già detta, Bonini, dalla Moldavia. Però posso ripetere 2 volte tutte, Ucraina. Qualsiasi signora che sia all'ascolto e che fa quel mestiere lì, che lavora tutto il giorno o magari una parte del giorno con una persona anziana o che semplicemente ha bisogno di aiuto e di vicinanza, 800240024 oppure 349-238-6666. Storia un pochettino come questa qua. Isabel, ad esempio. Isabel, noi l'abbiamo conosciuta personalmente l'anno scorso perché non sono un'ascoltatrice, ha partecipato al concorso che si chiamava Vendo Anch'io. Lei vendeva una valigia con la quale era venuta dall'Ecuador, mi pare, o dalla Colombia. No, dall'Ecuador. E ci aveva già raccontato la sua storia. E oggi ce ne racconta un altro pezzo, perché sul profilo Facebook Matteo Caccio, io sono qui, chiedevo proprio storie di persone che fanno quel mestiere, che vengono dall'estero. E Isabel mi scrive: ciao Matteo, io ho fatto la badante per 4 anni. Lavoravo giorno e notte con sabato sabato a mezzogiorno e domenica libera. Era una signora che aveva l'Alzheimer ed era la mia prima esperienza. Con l'aiuto dei figli e di un'infermiera imparai un sacco. Dopodiché trovai un nuovo lavoro come badante. La signora più che altro aveva bisogno di compagnia. I figli a loro volta avevano famiglia e a lei piaceva moltissimo stare per conto suo. È ancora in vita, ha 94 anni e ci sentiamo sempre. Oggi io non faccio più la badante perché a mia volta anche io ho famiglia. Ecco perché capisco benissimo quando i figli si vedono costretti a prendere una badante giorno e notte. Questa è la mia storia di badante, non più badante oserei dire, che ha bisogno di una badante, giusto per usare la parola badante 3 volte in 3 secondi e fare il record del mondo. Francesca, per 4 anni una coppia di sorelle moldave, bella la dire della coppia delle sorelle moldave, sembrano uscite da, come si chiama, la triplet di Belleville, ve lo ricordate quel film a cartone animato che ha un altro titolo però in italiano, è Appuntamento a Belleville, e sono 3 sorelle francesi. Qui invece ci sono 2 sorelle moldave, si è occupata di mia nonna, vivevano insieme a lei, si davano il turno nei periodi di ritorno in patria. Eravamo tutti molto affezionati a loro e le ragazze, le chiama così Francesca, quindi probabilmente erano giovani o avevano l'aria da ragazze, ad ogni ritorno portavano a tutti i membri della famiglia un sacco di regali, tra strani liquori aromatici in bottiglia a forma di pistola e santini in plastica varie ed eventuali, non scorderò mai il Bucuria. Trattasi di dolcetto al cioccolato, erano pesanti come il plutonio. Ho sempre condiviso il prezioso bene di importazione col gruppo di gioco del D&D. Cos'è il D&D? Sarà Dungeons and Dragons. Volete dirmi che c'è ancora... Puoi abbassare un attimo. C'è ancora gente nel 2011 che gioca a Dungeons and Dragons. Va bene. Magari online ci gioca. Grazie, Rudy. Ancora oggi, ad oltre 4 anni di distanza, c'è chi tra i miei compagni di gioco trema ancora al nome Bucuria, che effettivamente, solo detto così, fa un po' effetto. 800240024 0024 349-238-6666. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi quest'ultima storia che mi ha scritto Maria, che dice: io sono una farmacista e ogni giorno mi confronto con storie di ogni tipo a proposito di badanti e anziani. L'ultimo episodio: una badante assisteva una coppia di vecchietti. I diminutivi sulla parola vecchi è una cosa che proprio mi fa un po' venire l'orticaria. Anziani, vecchi va bene uguale, no? Nel senso che non è che uno dice giovanetti, giusto? O adultetti, o no? Giovanotti, vabbè, no, giovano, ma chi dice giovanotti? Ma no, ma al massimo Jovanotti, quelli che non sanno ancora pronunciare il nome Jovanotti. Va bene, non entriamo lì dentro, che è anche l'ultima settimana e abbiamo poco tempo. Insomma, una badante assisteva una coppia di anziani Tavor dipendenti. Qualche settimana fa muore la moglie. Non appena viene il marito in farmacia, faccio le condoglianze e prendo automaticamente il Tavor dalla cassettiera. Ma lui mi guarda e mi dice: grazie, ora non mi serve più, vorrei una scatola di Viagra. Rock and roll, direi, alla fine di questo messaggio. 80024 0024 349 238 6666. Oggi si parla di badanti e dei badanti per questo motivo qui. E così domenica sono andato a trovare mia nonna. Mia madre era partita per la Mongolia insieme a mio padre, o meglio, era ancora all'aeroporto, e io ho deciso che andavo a pranzo da lei. Quando sono entrato in casa, gli scuri erano tutti chiusi. Da bambino questa cosa mi faceva impazzire. Io da bambino volevo che il sole caldo entrasse dalle finestre per illuminare tutto quello che era stato al buio in inverno, e lei invece tirava giù le tapparelle. Che aveva ragione mia nonna, ovviamente. Ora lo so che chiudere il sole fuori casa è il modo migliore per tenere lontano il caldo. E quando sono entrato da lei a luna di domenica e ho trovato le persiane chiuse, mi sono sentito a casa. Mia nonna vive con una signora ucraina, si chiama Anna, ha una 60ina d'anni. È una bella signora bionda, coriacea, che fa quello di cui ognuno di noi avrà bisogno negli ultimi anni della propria vita: avere aiuto e compagnia. Anna ha aperto la porta con il solito sorriso di chi ha imparato tardi una lingua e quindi cerca di concentrare tutto negli sguardi, nelle mani, nella piega della bocca. Io l'ho baciata e l'ho chiesto come stava, lei mi ha detto che stava bene e l'ha fatto con una voce profondissima. Poi mi ha accompagnato da mia nonna. Loro due erano già a tavola. Mia nonna, quando mi ha visto, mi ha guardato con un'espressione che era a metà tra la felicità di chi vede una persona cara all'improvviso e il rimprovero di chi di quell'arrivo avrebbe voluto essere avvisato. In un attimo Anna aveva apparecchiato un posto in più e mi aveva servito una porzione delle lasagne che aveva preparato per loro, che con i 30 gradi che facevano fuori ci stava veramente bene. Abbiamo chiacchierato un po' di mia mamma e di mio papà, che erano partiti per la Mongolia, appunto. Mia nonna si è anche un po' arrabbiata dicendo: l'Italia è così tanto bella, cosa serve andare fino in Mongolia? Perché è un po' come dire, ad esempio, che se mi piace la pasta e posso farmela al pomodoro o al pesto, perché mai dovrei provare la carne, ad esempio, o il formaggio? Questi però sono discorsi che gli anziani fanno e glieli si perdona. Una volta l'ho sentito fare anche a Maurizio Costanzo, mi pare. Ma perdono anche lui. Mia nonna mi ha chiesto di Natalì e io le ho detto che era in Georgia. E quando ho detto così, Anna si è illuminata. Mi ha raccontato che la Georgia non è poi così lontana dall'Ucraina, che c'è solo un pezzetto di Russia nel mezzo. Lì mi sono accorto che stavamo parlando di persone lontane da casa, ma che l'unica persona lì, lontana da casa sua, era quella donna, di 60 anni, che a Kiev era stata un controllore degli autobus. E in quel paese aveva ancora un marito, 3 figli e 4 nipoti. Le ho chiesto se ne mancavano, i nipoti e i figli. E un secondo dopo, anzi proprio mentre glielo chiedevo, mi sono sentito come quei giornalisti stupidi, quelli che chiedono a una vedova se le manca il marito. Lei però non ci ha fatto caso, mi ha detto che sì che le mancavano, ma che lei era lì anche per loro. Mi ha detto che viveva in un paesino della pianura padana tutto il giorno con una donna di 90 anni, che fino a qualche mese fa non conosceva, solo perché un giorno loro potessero vivere un po' meglio di come vivevano ora. E lo diceva con una serenità e una nobiltà invidiabili. Mentre mangiavamo le sue lasagne, mi ha detto che la lontananza non conta se hai un progetto. Si è alzata ed è andata nella sua stanza ed è tornata con un barattolo di vetro vuoto. È cominciato un discorso un po' complicato, ma ha detto che la lontananza era esattamente come l'aria che era chiusa in quel barattolo. Quel barattolo lei lo aveva sigillato a Kiev quando era partita 4 anni prima e l'avrebbe riaperto solo quando ci tornava definitivamente. Ecco, quel barattolo pieno dell'aria del suo paese era la misura del suo distacco da casa. Ancora non poteva misurarla bene, ma sapeva che prima o poi l'avrebbe respirata di nuovo, e avercela vicino le dava conforto. Ammetto che il concetto non mi era proprio così chiaro, eh. Quando però stavo per farle una domanda, è squillato il suo cellulare, che aveva come suoneria Poker Face di Lady Gaga. Lei ha risposto e, parlando una lingua sconosciuta, è uscita dalla cucina. Mia nonna mi ha guardato con gli angoli della bocca leggermente piegati verso il basso, che è la faccia che fa sempre quando vuol dire che qualcuno ha parlato proprio bene. Poi mi ha guardato e mi ha detto: "E tu? Quando parti?" Quando parti? Mi ha chiesto mia nonna. E io neanche sapevo se sarei partito. Non sapevo nemmeno per dove partire. E quindi le ho detto che, boh, non lo sapevo. E poi le ho chiesto: "E tu invece, nonna, non parti?" Lei si è messa a ridere. Mi ha detto che lei non era mai partita. Che era quella che era sempre rimasta a casa ad aspettare. Perché sai, ci vuole ben qualcuno che stia a casa a prendersi cura della casa. Io le ho detto che no, che basta chiuderla e tenere acceso il freezer, no? E tutti possono partire. E lei mi ha raccontato invece di quando 50 anni prima, un'estate, mio nonno e mia mamma erano andati 10 giorni al mare a Finale Ligure e lei era rimasta a casa. "Scusa, ma perché sei rimasta a casa? Non potevi andarci anche tu?" "E no, io dovevo stare lì a curare le galline", mi ha risposto. Ecco, lì ho capito che non c'era niente da fare, che non era questione di galline o di casa da guardare. La questione era un'altra. La questione era che ci sono delle persone che non sono fatte per muoversi dal posto in cui sono nate. Alcuni partono e stanno via dei mesi, magari anni o tutta la vita. Altri invece non riescono a muoversi da casa. Per loro la lontananza ha un'accezione solamente passiva. Lei era lontana da me perché io vivevo a Milano, era lontana dai miei perché stavano andando in Mongolia, ma non era mai stata lei quella ad essere lontana. C'è una strana sensazione di superiorità nell'essere quelli che si allontanano. Una sensazione che non avevo mai percepito prima di domenica. Perché chi si allontana è più forte. Chi si allontana guida il gioco e chi sta a casa lo subisce. Posso solo aspettare. Ci eravamo trasferiti nel salotto. Lei si era seduta sulla sua poltrona in pelle e io mi ero messo sul puff davanti alla poltrona dove di solito lei appoggia i piedi. E guardandola a un certo punto mi sono accorto che improvvisamente mia nonna non era più solo una nonna. Per un attimo mia nonna era diventata una donna. Anziana, ovviamente, con 90 anni di esperienza e tutto quello che comporta. Ma era una donna. Con tutte le paure, le gioie, le passioni di una donna, con i desideri, le pulsioni che ogni donna prova nell'arco della sua vita. Mia nonna e io, seduto di fronte a lei, non eravamo più solo dei parenti stretti. Eravamo come due generazioni, una di fronte all'altra, con pochi centimetri a separarci e 60 anni a dividerci. Lei apparteneva alla generazione che non partiva, che stava a casa ad aspettare il marito, che tornava dalla guerra o da Finale Ligure. Una generazione che passava le sere nelle stalle e ora le passa guardando Gerry Scotti. Io invece appartengo alla generazione che parla con la fidanzata via Skype e che sembra non crescere mai come i nostri genitori crescevano alla nostra età. La generazione che può permettersi di piangere da adulta, piangere per le cose perse e quelle non ottenute, per i dolori provati o per quelli inflitti. Le generazioni prima della mia piangevano da bambini e poi non gli era più concesso, non ne avevano il tempo e magari nemmeno l'opportunità. Io mi sono appoggiato sulle sue ginocchia come se avessi 10 anni e cercassi il suo affetto, come se una generazione debole cercasse il conforto in una più forte. Ho infilato la mano in tasca e ho tirato fuori il mio quaderno. Avevo bisogno di leggere una frase di Natalie, del suo diario, anzi del nostro diario ormai incrociato. E ho cercato l'ultima frase che avevo visto poco prima in macchina e ho letto quella immediatamente successiva. Diceva così: oggi ho cercato quanto dista Tbilisi da Milano. Sono più di 3.000 chilometri. Ho spiegato a mia nonna che quella era una frase scritta da Natalie sul retro del mio diario e senza dire una parola di più o una parola di meno, mi ha preso una mano e mi ha detto: Matteo, parti. There may be some tears through the coming years. Ooh, all the while I know you'll be smiling. Your love will guide me through every mile, 'cause you're the one that I long to kiss. Baby, you're the one that I really miss. You're the one that I'm dreaming of. Baby, you're the one that I love. Yeah, yeah, you're the one that I love. A Firenze nel parco vicino a non so che cosa si trovano tutte le domeniche per fare pranzo e fare festa. E poi mi scrivono che bucuria vuol dire allegria in rumeno, però sarà anche il nome di un dolce, altrimenti no. Mary Elizabeth, non la scorderò mai, era peruviana, accudiva mia madre che è mancata 8 anni fa, era ancora giovane. Come una figlia, Mary Elizabeth, non posso dimenticarla. Ora accudisce me come una sorella, che sto male perché ho la sclerosi multipla. Tutta la mia famiglia le vuole bene. Viviana, 80024 0024 349 238 6666. Il giovedì a Bari vede... Forse l'ha scritto una signora che non è italiana. Il giovedì a Bari, in piazza Umberto, è letteralmente invasa da signore slave. Sono centinaia. Il perimetro della piazza è circondato da furgoni che andranno a Kiev, Minsk ed altre città dell'ex Unione Sovietica, portando i pacchi delle badanti a casa. 80024 0024 349 238 6666. Prima però di dare la linea alla borsa. C'è la borsa oggi, eh? Oh, non è Santo Stefano, quindi. Yeah. Ma non avevamo detto che non c'era per tutta la settimana? No, era solo oggi. Solo ieri. Dopo un'esperienza rovinosa, abbiamo accolto in casa una badante moldava che si è preso cura di mio zio in maniera splendida. Per noi di famiglia, ci racconta spesso della sua vita passata nella povertà, dei tanti tentativi di entrare in Italia come clandestina, passando anche per le nostre carceri. Ora mio figlio le sta insegnando a usare il PC per comunicare con i suoi due figli e lei la domenica ricambia con un ciambellone. Ha preso la patente, le abbiamo anticipato i soldi per comprare un'auto e lei puntualmente ogni mese ci restituisce una parte. Mio zio purtroppo è mancato, ma l'abbiamo ottenuto lo stesso con noi. Anzi, mia madre di 85 anni ora fa da badante a lei, insegnandole tante ricette italiane e un po' di giardinaggio. E lei sta ricambiando, imbiancandole la casa. Io sono qui. Allora, oggi siamo in una specie di conciliabolo over 60, oserei dire. Ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 persone sedute in a semicerchio su delle sedie che probabilmente saranno una sorta di anfiteatro. Credo sia una prova, perché ci sono dei signori anziani che sembrano spassarsela. Uno che suona la chitarra e uno che canta con un microfono in mano. C'è anche un amplificatore, delle casse, quindi si prepara, credo, uno spettacolo. Sullo sfondo delle montagne, un cielo grigio e nessuna traccia di badante. Roberto Taroni, Reggio Emilia, 44 anni. È un'inaugurazione di un caseificio nell'Appennino di Parma. È un posto meraviglioso, una giornata stupenda. I contadini del posto hanno improvvisato una cantata con coro in dialetto del luogo. Io sono qui. Credo che questo sia uno di quei casi in cui la foto sarebbe dovuta essere corredata dell'audio, perché il signore, andate a vedere questa foto, c'è questo signore con la barba bianca e la camicia rosa col che tiene il microfono come se fosse un cono gelato, che chissà che cosa sta cantando. 800 24 00 24, 349 238 6666. Oggi si parla di lontananza, della lontananza vista dalla parte di qua, cioè delle persone che sono qui e che vivono lontane da casa e che a casa hanno magari dei parenti, dei familiari. Io vorrei sentire subito una signora, una ragazza direi, perché credo sia anche abbastanza giovane, che si chiama Svetlana ed è a Milano. Pronto Svetlana? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao Svetlana, grazie per essere qui. Pronto Matteo? Mi senti? Sì, sento. Ciao, senti Svetlana, tu quanti anni hai? 43. Hai 43, da quanto sei? Sì. Quindi sei giovanissima. Ma mica tanto. Da quanto sei in Italia? Sono 7 anni già. Sei 7 anni e da dove vieni? Da Ucraina, mia città si chiama Lviv. E senti, quante famiglie hai cambiato da quando sei qui in 7 anni? Ho cambiato 3 famiglie. E come ti sei trovata, Svetlana? Mi sono trovata bene. E adesso sei a Milano? No, sono ancora qui a Lago Maggiore, a Verbania. Ah, Verbania, ok, perché graviti attorno alla parte alta del Lago Maggiore. È bellissimo, qui è bellissimo. Senti Svetlana, però la notizia non è tanto questa. La notizia è che tu oggi, tra meno di 4 ore, incontri tua figlia che non vedi da quanto tempo? Sì, è vero, non vedo da 1 anno e 3 mesi. Cioè, nel senso che non la incontri da 1 anno e 3 mesi? Sì. E lei arriva oggi, a che ora arriva? Alle 8:20. Dove? Arriva a Bergamo. All'aeroporto di Bergamo? All'aeroporto del Bergamo. Senti, e non viene da sola però tua figlia? No, mia figlia viene con suo fidanzato. E quanto si fermano? Si fermano per 20 giorni. Cioè viene a far vacanza praticamente? Sì, sì, fa vacanza. Tua figlia hai detto che ha 20 anni? Sì, 20 anni, sì, è vero. Senti, l'ultima volta che l'hai vista qui o in Ucraina? Ho visto a Ucraina. E la prima volta che viene tua figlia qua? Prima volta, sì. Perché non sempre c'è possibilità. Senti, Svetlana, io devo veramente... ho una domanda stupida da farti e te la faccio. Sì. Com'è aspettare 1 anno e 3 mesi per vedere la propria figlia? È una gioia, poi sono un po' nervosa, non so io. Tutto insieme. Che cosa hai in mente di farle fare in questi 20 giorni? Andiamo a Milano, vediamo un po' qui, posti belli, ci sono tanti posti belli. Tu che cosa facevi in Ucraina prima di venire in Italia? Facevo la commessa. In un negozio? Un negozio, sì. Senti, quanto tempo hai in mente di rifermarti in Italia? Oh, non lo so, altri 10 anni. Altri 10 anni. Svetlana, senti, ti ringrazio moltissimo, ti lascio concentrarti sull'incontro con tua figlia questa sera. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata. Ciao, voi. Grazie Svetlana. E poi c'è un ospite, diciamo, quasi fissa di questa trasmissione. È un'ascoltatrice dai tempi di Vendo Tutto. Quanti anni ha Cesarina? 80, credo. È di Torino. Bonini, non fare così come se ne avesse 200. Pronto Cesarina? Pronto Matteo. Ma come stai? Ciao, tutto bene. Ti ascolto quando posso. Brava, senti. Quanto entusiasmo Cesarina. Un anno fa ho compiuto 79 anni. 79, io ho detto 80, perdonami Cesarina, è che tu no, sei... No, ma senti, ma io sono contentissima. Di che cosa? Io ringrazio Dio di essere arrivata a quest'età. Ricordiamo tuo marito quanti anni ha? Sì, lui ne è 81. E ricordiamo anche che Cesarina e suo marito una volta alla settimana lo fanno. Sì, noi andiamo via sempre, noi abbiamo il camper, andiamo via in camper. No, dove andate in camper, Cesarina? Senti, non ridere, siamo sempre andati a 1000 chilometri, a testo. Quest'anno non possiamo andare perché c'è un parente malato, però andiamo in Toscana. Bravissima, senti, ma perché tu mi chiami? Perché tu voi non avete bisogno di badanti, siete... Ma sì, io ho bisogno perché... ho la schiena un po' rotta. Allora viene una signora bravissima che l'amo come una figlia e te la passo. Passamela, vai Cesarina, grande. Ciao Matteo, sono Maria della Romania. Ciao Maria della Romania, come stai? Benissimo. Sembra una telefonata in famiglia. È la seconda mamma per me in Italia. Da quanto sei qui Maria? Da 9 anni e lavoro da signora Vigna da 8 anni. Come si chiama Cesarina di cognome? Cesarina Giordani. Giordani. E lui Vigna Giuseppe. Vigna, giusto, tu giustamente chiamavi. Quanti anni hai Maria tu? Io ce l'ho 43 anni. Ce l'hai 43 anni. Quanti figli hai, quanti parenti hai a casa? Mio figlio si laurea quest'anno in economia e finanze in Romania. La figlia ce l'ho qua, il mio marito. Anche tuo marito è qui o in Romania? Noi qui. Ah, è qui. Okay. Ma quindi, abbiamo fatto dei grandi sacrifici. Ringraziamo tutti voi italiani per ma tutto. Guarda, io non ho fatto niente al momento ancora, Maria, però se posso fare qualcosa. Senti, cosa facevi prima di venire in Italia, in Romania? Lavoravo con un operaio in Romania. E ho perso il lavoro, poi sono venuta nel 2002 qua. Senti, torni ogni tanto in Romania o no? Sì, tutte le volte, due anni. Ogni due anni? Due volte all'anno, scusami, sono molto emozionata. Ma figurati, Maria, anch'io. Senti, dimmi se vai in vacanza quest'estate. Sì, vado in vacanza a agosto, perché si laurea mio figlio, io non sono vicino con lui, vado dopo. Ma scusami, tuo figlio si laurea... Cesarina intanto suggerisce. Tuo figlio si laurea in Romania? Si laurea in Romania, succedeva, perché non l'ho portato qua, perché lui vuole studiare a casa, in Romania. Ho capito. Quanti anni ha tuo figlio, Maria? Ce l'ho mia mamma ancora. Hai tutta la famiglia. Senti, Maria, io ti ringrazio molto. Salutami Cesarina, non ripassarmela. Grazie, altrimenti... io ti ringrazio perché vi sento tutte le volte. Vi sento come un parente. Va bene. Di Italia. Va bene, Maria, grazie mille. Grazie ciao, per tutto. Ciao. Metti giù, altrimenti mi ripassa Cesarina e non ci riveremo più. Aspetta un attimo che ti passa la nonna che ti saluta. C'è una piccola cosa che mi ha raccontato Tiziano prima, che è una cosa che è venuta fuori da una ricerca che ha fatto tu. L'avevi fatta tu la ricerca qualche anno fa, intervistando delle persone che sono lontane da casa e che usano la radio come strumento per sentirsi un pochettino a casa, ed è che in Nigeria ci sono la comunità si divide più o meno in due gruppi di persone, quelli che appunto non partono e quelli che invece partono e stanno via da casa per un po' di tempo. Quelli che non partono mai sono definiti bush people, cioè la gente dei cespugli, letteralmente, che sono quelli che non hanno mai lasciato il bush, cioè la casa. Invece quelli più sofisticati, diciamo così, si chiamano i bento, giusto? Pronunciato bento, che sta per have been to, cioè sono quelli che invece sono stati a Londra, a Parigi, a New York e a Milano. E probabilmente, prima mentre me la raccontavo, ci pensavo questa cosa, che questa cosa vale chiaramente per tutte le nazioni, no? Ci sono i Bush anche in Italia e ci sono i bento anche in Italia. Credo che mia nonna sia decisamente una Bush nonna. Io un giorno me ne vado, ero solito dire a mia madre, nonostante la mia tenera età, 3-4 anni al massimo. Mio fratello ormai aveva compiuto un anno e suo malgrado era diventato la mia valvola di sfogo. Insomma, lo torturavo e come conseguenza ricevevo le sgrida di mia madre. Così si entrò in un circolo vizioso, sevizia, sgrida, sevizia, sgrida, sevizia, sonora lezione da parte di mia madre. Una sera, come tutte le sere, mia madre mi fece il bagno e dato che io ero ancora arrabbiato per i ceffoni ricevuti, le dissi: questa volta me ne vado davvero, non ne posso più. Mia madre non batte ciglio. Finito il bagno mi asciugò e invece di vestirmi con il pigiama mi portò dei vestiti pesanti e un giubbotto. Io ormai mi ero completamente dimenticato della mia minaccia. Lei no. Le chiesi: mamma, scusa, perché mi porti i vestiti e non il pigiama come sempre? E lei mi rispose: perché fuori fa freddo. E forse sarebbe meglio se tu uscissi con qualcosa di più pesante. Fate come ha fatto Alessandro Frau. Io sono qui, che è l'autore di questo racconto. Io sono qui, @radio24.it. Vi prendete... facciamo 30 minuti. No, magari 30 minuti è troppo. Facciamo 20 minuti, anche di più, dice Bonini. Vi prendete un'oretta, vi mettete lì e pensate a un episodio della vostra vita. E per episodio intendo una piccola storia che vi è accaduta, che sia reale o che avete sentito raccontata, che però sia accaduta nella vostra vita o che l'abbiate sentita. Vi mettete lì e scrivete una pagina di questo racconto. La spedite a iosonoqui@radio24.it. Viola, ne sono arrivati già 250. 260, mi dice Viola. Io sono qui, @radio24.it. Per chi non l'avesse ancora capito, questa cosa l'anno prossimo diventerà una trasmissione. Diventeranno le vostre storie raccontate attraverso la mia voce qui a Radio 24. Io sono qui, @radio24.it. Tanto guardo Rudy per capire se ci siamo. Ah, perfetto, no, perché ogni tanto la viabilità si svia un pochettino. Voglio leggere gli ultimi messaggi. Ciao Matteo, mia nonna sarà andata il 18 gennaio, grazie per il racconto, la penso ancora. E poi Carlo da Cremona: l'inizio della fine è stata la Romania in Europa, Cremona e i rumeni superano il 15%. Tu pensa che l'inizio della fine pensavo fosse stato la vittoria dello scudetto del Milan. Grazie a tutti, grazie a Stefano D'Andrea che scrive con me questo programma, grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Fabio Rudi Cantadori. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?